Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a questa puntata speciale di Salva Danaio. Sentite un po', lo sapevate che il movimento degli Indignados è nato a Londra nel 1456 contro i banchieri italiani, che all'epoca erano i più ricchi del pianeta? Lo sapevate che c'era un tempo in cui le obbligazioni erano scritte in genovese? Lo sapevate che i cicli delle grandi banche, storicamente, si concludono sempre con grandi fallimenti? E lo sapevate che è stata proprio l'Italia a dare alla finanza moderna praticamente tutti gli strumenti di cui ancora oggi ci serviamo: l'assegno, la girata, lo scoperto, persino la chiocciola di internet e la partita doppia. Se tutte queste cose non le sapevate, come me, perché non avevate avuto l'opportunità di studiarle fino in fondo o non ve le ha raccontate nessuno, dovete saperle che adesso le racconta in maniera molto dettagliata e documentata e in certe parti anche molto divertente il giornalista e storico Alessandro Marzomagno, libro edito da Garzanti, uscito proprio poche settimane fa, dal titolo L'invenzione dei soldi quando la finanza parlava italiano. E allora, se potete prendervi qualche giorno di vacanza in questa Pasqua 2013, anche perché il tempo favorisce il riposo, le condizioni meteorologiche, e la volete dedicare questa pausa alla lettura, anche se il tema non è esattamente spirituale, noi ve lo consigliamo e anzi, per incuriosirvi e incuriosirci ancora di più, abbiamo invitato nel nostro programma l'autore Alessandro Marzomagno, che saluto collegato telefonicamente con noi. Alessandro, buongiorno, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, una piccola precisazione: qualche giorno, beh, insomma, occorre meno di qualche giorno per leggere il libro, perché è una lettura molto, molto scorrevole. Non dovrei dirlo io, ma so che è così. E un'altra cosa, io non sono uno storico, sono un giornalista. Ti dissoci da questa, però documenti talmente tanto bene questo libro, ma anche tutti gli altri che hai scritto, perché tu ti sei dedicato anche, per esempio, alla ricostruzione storica di tutte le vicende di Venezia, per esempio, perché tu sei di quelle parti. Io sono veneziano, sì. Ecco, sì, e quindi insomma studia a lungo. Cresciuto e laureato a Venezia, anche se adesso vivo prevalentemente a Milano. Allora, diciamo che la storia e il giornalismo sono la tua passione insieme. Allora, se proprio vogliamo dirla tutta, quando sono diventato un giornalista disoccupato mi sono messo a scrivere libri. A studiare. Le due cose, non so cosa sia peggio. Hai fatto, come dire, di una fase problematica della tua vita e cercato di renderla costruttiva, quindi hai messo a frutto il tempo, più tempo che avevi a disposizione studiando di più, e poi hai messo tutti insieme queste nuove nozioni che magari stavi apprendendo appunto in questo libro, che è molto interessante. E soprattutto, Alessandro, è quanto mai attuale, perché per la verità molte vicende storiche del passato, del Medioevo, hai affrontato appunto alcuni periodi, in realtà volendo le possiamo ritrovare anche oggi, no? Ci sono molte similitudini su fatti accaduti nel passato, ce li possiamo, come dire, un po' ritrovare anche oggi. Poi magari ce li racconti un po' questi fatti di cui possiamo, come dire, ritrovare anche delle similitudini in fatti attuali. Ma assolutamente sì, diciamo che non c'è niente di nuovo, questa è un po' la cosa che emerge andando a guardare al passato, ed emerge anche poi il fatto che nessuno mai si guarda indietro e cerca di evitare gli errori che sono già stati fatti. Comunque è la banca in se stessa che è problematica, perché la banca è una struttura intrinsecamente instabile. La banca non ha mai abbastanza liquidità per far fronte a una crisi, a un'eventuale corsa al ritiro dei depositi da parte dei depositanti. Era così nel Medioevo, era così nel Rinascimento, è esattamente così anche oggi. Cioè, le banche medievali fallivano per gli stessi motivi per cui falliscono le banche odierne. E infatti tu lo racconti. La differenza è che oggi non falliscono più, perché tendono a tenerle in piedi per avere la gente arrabbiata per le strade. Ma anche perché poi, ecco, oggi in questa finanza così globalizzata, noi utilizziamo sempre questo termine, a volte in maniera anche un po' impropria, però effettivamente una banca che fallisce provoca un danno a domino dalla portata inimmaginabile, per cui si tende forse a non farle fallire anche per questo. Non è un danno limitato anche territorialmente, come forse poteva essere una volta, ma in realtà, leggendo il tuo libro, scopriamo che anche in passato non era così. Esatto, perché anche la globalizzazione non è di oggi, cioè le più grandi banche del Medioevo, che erano quelle dei fiorentini, Bardi e Peruzzi, avevano filiali in tutta Europa, avevano filiali in Nord Africa, in Medio Oriente, avevano centinaia di dipendenti, e quando queste due grandi banche saltano, falliscono a metà del 300, si tirano dietro a Firenze una serie di fallimenti a catena impressionanti. Certo. Noi abbiamo un solo elenco di fallimenti, che sono 350 persone, piccoli artigiani, anche appunto persone non particolarmente ricche, importanti, che falliscono dietro al fallimento delle grandi banche fiorentine, per cui erano dei cataclismi, lo erano più di quanto non siano oggi. Esatto, allora tra l'altro su questo punto ci ritorniamo dopo, perché gli voglio dedicare un approfondimento ancora più dettagliato. Prima però ti chiederei, Alessandro, di scattare, se vuoi, una Polaroid generale del tuo libro, poi scatteremo delle fotografie singole tra i vari capitoli. Che tipo di analisi avevi in mente quando hai cominciato questo lavoro? Ma è un po', lo spiega il sottotitolo, quando la finanza parlava italiano. Cioè, questo libro spiega quando Wall Street stava a Firenze, in sostanza. Quando l'Italia era il cuore della finanza mondiale. Anzi, c'era come dice uno storico dell'economia americano, Genova, la Toscana e Venezia formavano il triangolo d'oro del denaro. E appunto, come dicevi tu prima, tutto quello che conosciamo noi oggi nella banca e nella finanza si è formato all'interno di questo triangolo d'oro tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Il libro grosso modo finisce quando la finanza passa alle Alpi, cioè quando chiude il Banco Medici nel 1494, la fiaccola passa ai tedeschi, ai Fugger, ai tedeschi, e quindi varia dall'Italia. Cominciamo a scandagliare allora questi capitoli. Il primo è molto interessante, riguarda le monete e i metalli. Leggo l'incipit del primo capitolo, mettiamola così: dopo la fine dell'impero romano, la moneta va in soffitta. Nel Medioevo non ce n'è granché bisogno, manca uno Stato che la promuova, e per procurarsi bene i beni basta il baratto. Quando ricompare allora la moneta, Alessandro? La moneta ricompare con Carlo Magno. Carlo Magno crea una specie di moneta unica europea dei suoi tempi, che poi valica anche la manica, perché era accettata pure nell'Inghilterra meridionale, che è il denaro carolingio. E a questo proposito è importante sottolineare una cosa, che la moneta non è uno strumento economico, la moneta è uno strumento politico, è espressione del potere di chi la emette. E in questo caso di Carlo Magno, che per ribadire il fatto che lui è l'imperatore, coni una moneta e gli dà il nome che aveva la moneta romana, il denarius. Oltre a essere espressione politica, un'altra cosa che è interessante notare è che la moneta è fiducia. La moneta è sostanzialmente fiducia. Bisogna avere fiducia in questo mezzo di pagamento. E a prescindere dal fatto che sia di carta o di metallo o di altre cose, perché queste sono tutti contorni. Per noi oggi è chiaro che la moneta è fiduciaria, no? Perché un pezzo di carta con sopra stampato qualcosa in sé non vale niente, ma lo era anche quando la moneta era di metallo, perché anche il fatto che l'oro valga più dell'argento, per esempio, è una convenzione, certo, che abbiamo noi in Europa. In Cina l'argento valeva più dell'oro, tanto per dire. E oggi addirittura paghiamo con un bit. Quando facciamo un bonifico online, noi compriamo dei beni con il nulla, cioè noi in cambio di nulla, di un bit elettronico, otteniamo dei beni, e quindi questo è assolutamente chiaro. Sì, perché materialmente non vediamo lo spostamento del denaro, però una transazione avviene. Cioè, ma come funzionava il sistema monetario carolingio, Alessandro? Beh, appunto, che Carlo Magno crea questo conia, questo denaro che si espande in tutta Europa, crea una sorta di mercato unico europeo della moneta. E la cosa interessante è che con una libra di argento si coniavano 240 monete, e quindi anziché la gente comune, anziché dire 240 denari, trovava più semplice, più comodo dire una libra, da cui poi viene una lira. E tutte le unità monetarie che noi conosciamo in Europa, quelle pre-euro ovviamente, sono unità di peso. La pesetta, il pound inglese, anche il marco tedesco, il marco di Colonia era un peso. E quindi i nomi che hanno le monete ci derivano direttamente da quel periodo. Dopodiché il denaro si svilisce, insomma, la storia continua. Certo. No, tra l'altro però mi interessava un altro aspetto che ho letto sempre in riferimento al periodo del sistema monetario carolingio. Forse è proprio questo il periodo in cui si sente parlare per la prima volta di un tema che oggi ogni tanto affiora nel dibattito economico, ma che in realtà forse non si riesce ancora ad approfondire con grande cognizione di causa, il tema del cosiddetto diritto di signoraggio. Ah beh sì, certo, quando si coniavano le monete poi bisognava lasciare un pochino di metallo prezioso alla zecca che le coniava. E le zecche erano private, per cui era un'attività economica come un'altra, e coniare monete, per cui bisognava rendere la moneta talmente appetibile che da far sì che qualcuno portasse il proprio argento e successivamente il proprio oro in zecca e si facesse coniare delle monete pur lasciando lì una percentuale di questo metallo prezioso. E questo quindi è la grande innovazione, no? Perché non avvenivano sulla base di lingotti d'argento o lingotti d'oro, oppure di dischi d'argento o d'oro senza impresso nulla sulle due facciate della moneta, proprio per quello che dicevo prima, no? Per la fiducia, perché la moneta era espressione di un governo e la gente aveva fiducia in queste monete. Andiamo allora all'altro grande tema che in qualche maniera la fiducia richiama, è quello del rapporto fra un cliente ed una banca, rapporto che era problematico anche all'epoca. Vi faccio sentire questo estratto dal libro di Alessandro Marsomagno, il capitolo 3, fallimenti e cadute. Una cosa è certa, le banche falliscono, sentiamo. Una cosa è certa, le banche falliscono. E in tempi in cui non esistevano paracadute sociali elargiti dai governi, il fallimento significava la rovina. La storia dell'alba della banca è una storia di molti tramonti. In un caso, almeno, quello di Bardi e Peruzzi a Firenze a metà 300, le tenebre calano così fitte da far pensare a una notte eterna. In quell'occasione si sono concentrate tali quantità di diverse casuali occorrenze negative da far sembrare il tracollo di Wall Street del 1929, l'inflazione tedesca della Repubblica di Weimar e la conseguente crisi del 1931, ma anche il terremoto dell'euro del 2011-2012, innocui e irrilevanti accadimenti della storia. Pensate un po'. I fallimenti bancari coincidono con inondazioni, carestie, rincaro dell'argento, e precedono solo di poco la peste nera del 1348 che flagella l'intera Europa e dimezza la popolazione di Firenze. A quel punto, il fatto di aver perso tutto il proprio denaro poteva persino risultare superfluo. Le banche del Medioevo e della prima età moderna nascono con un vizio congenito, una malattia genetica che ne mina le radici, la mancanza di liquidità. E sarà sempre l'incapacità di rimborsare i creditori a causare i fallimenti, in alcuni casi con scene di panico collettivo, come a Venezia nel 1500, non molto diverse da quelle che 429 anni dopo coinvolgeranno i risparmiatori di Wall Street. Nel Medioevo, quando il recupero dei crediti era infinitamente più lento che ai giorni nostri, dal momento che anche sovrani come San Luigi erano tra i peggiori pagatori, ogni banco che riuscisse ad affermarsi veniva, prima o poi, distrutto da un assalto spesso ingiustificato dei suoi creditori. Alessandro Marsomagno, in realtà questo era il capitolo 3 che avrebbe bisogno, per essere ancora ulteriormente spiegato, del presupposto che è rappresentato dal capitolo 2, Banche e banchieri, dove tu racconti l'origine e la storia di Banca Monte dei Paschi, di tutte le grandi banche ligure, perché l'attività bancaria moderna vede appunto proprio la luce tra la Toscana e la Liguria. Sì, certo, infatti le banche prima di fallire devono essere create, e questo gli italiani sono stati dei maestri, perché hanno creato appunto un grandissimo sistema bancario. In genere i banchieri però non erano genovesi, i genovesi erano i padroni dei fondi, ma poi chi metteva in piedi le gambe e le banche, scusate, venivano da fuori, alcuni di questi erano toscani, infatti poi dopo passa la grande finanza, passa in Toscana. In Toscana si alternano Lucca, Siena e Firenze. La più grande banca europea del 200, la Gran Tavola di Orlando Bonsignori a Siena, fallisce nel 1298. e poi lascia spazio ai Bardi e Peruzzi, di cui avevamo detto prima che falliscono a metà del 300, e poi ai Medici che arrivano fino alla fine del 400. Ecco. In questo ambito Venezia rimane un po' defilata, perché Venezia era una potenza commerciale più che una potenza finanziaria. Per esempio era il centro, questa è una cosa che non sa quasi nessuno, non sapevo nemmeno io prima di affrontare questa cosa. Prima che arrivasse l'argento dalle Americhe, Venezia era il centro di smistamento, di commercializzazione del metallo monetario, perché arrivava dalle miniere dell'Europa centrale, che erano quasi tutte sottoposte agli Asburgo, arrivava nel fondaco dei tedeschi a Venezia, che esiste ancora, quindi è assolutamente visibile, e da lì poi veniva comprato dagli altri stati che dovevano battere moneta. Ecco, questo sistema girava alla perfezione e ha creato queste grandissime, importantissime banche. Poi dopo sono fallite, cioè prima di fallire dovevano esserci. Certo. Senti, c'è un'altra parte molto carina, pagina 43 del libro, in cui tu spieghi come all'epoca non ci fossero i multipli delle monete, mentre oggi, paradossalmente, anche se il panettiere si arrabbierebbe, se noi volessimo comprare un filoncino di pane potremmo anche teoricamente andare con una banconota da 500 euro, con il suo disappunto però potremmo pagare, no? Con questa moneta, con un taglio molto importante. Nel Medioevo non era così, non si poteva andare a comprare il pane per esempio con una moneta d'oro, perché? No, infatti, perché erano sistemi monetari paralleli che però non si intersecavano fra di loro. No? La moneta piccola, la moneta grossa e la moneta aurea, la moneta piccola di rame, convivevano ma non si interscambiavano, quindi c'era bisogno di una figura che era il cambiavalute, che convertiva le monete dall'una all'altra, da un metallo all'altro, appunto. E quindi se uno aveva una moneta d'oro e doveva andarsi a comprare il pane, andava dal cambiavalute e si faceva dare delle monete di rame. Non solo, dobbiamo considerare che l'Italia di quel periodo era suddivisa in tantissimi staterelli diversi, e quindi era assolutamente normale avere in tasca monete di uno stato vicino. Che ne so io, uno andava a Bologna e aveva in tasca monete milanesi e monete fiorentine, però Bologna non poteva spenderle, per cui certo, c'era bisogno del cambiavalute. Ne poteva andarle a cambiare da qualche parte. Infatti, e i cambiavalute erano quelli che conoscevano il contenuto di argento delle varie monete, che cambiavano, non erano tutti uguali. Cioè il denaro milanese era diverso dal denaro fiorentino. E quindi era in grado di cambiarle dall'una all'altra, oppure di cambiare appunto le monete d'oro in monete d'argento, in modo che poi comunque ne avesse un guadagno dovuto alla percentuale. Salva Danaio. Meglio sostenere la spesa certa del premio di una polizza assicurativa o confidare nell'auspicabile maggior guadagno che si realizzerebbe se la nave arrivasse sana e salva in porto, ma sostenendo anche pieno rischio? Domandina da niente che i mercanti sono andati avanti a porsi per qualche centinaio d'anni. Solcare il Mediterraneo era un po' come giocare alla roulette russa. Il rischio che qualcosa andasse storto era sempre in agguato. Là in mezzo al mar c'era di tutto. Pirati, nemici, ammutinati. Senza contare che ci si poteva mettere pure il tempo. Una bella tempesta e alè. Tutti a fondo, carico compreso. Che poi era quello che interessava davvero. Le vite dei poveri marinai non erano considerate granché. Darsi da fare con le polizze, frazionarle e rivenderne il rischio, comprare e vendere quote, diventa una faccenda così diffusa da fare di Venezia l'ombelico del mondo delle assicurazioni, tanto da indurre a provarci persino un gruppo di monache. Nel 1587 le convertite della Giudecca pensano bene di unire il fervore religioso alla speculazione finanziaria e concepiscono un ardito progetto di scambio. Se fosse stato loro assicurato un introito, apparentemente modestissimo, dello 0,08% per ogni ducato assicurato, avrebbero in cambio garantito di innalzare preghiere per la salvezza dei carichi, delle navi e dei marinai. Probabile che proprio questo fosse l'ordine di priorità secondo gli armatori. Fantastica l'esperienza delle convertite della Giudecca. Per gli ascoltatori che si fossero spaventati a sentire questa lettura, l'abbiamo tratta dal libro L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano, che è il libro che vi presentiamo oggi in questa puntata speciale di Salva Danaio, ed è con noi l'autore Alessandro Marzomagno, che saluto di nuovo. Ma insomma, Alessandro, tutto questo per arrivare anche a dirci che persino Cristoforo Colombo si assicurò prima di partire per quelle che sarebbero state poi riconosciute come le Americhe. Guarda, se lui personalmente fosse assicurato non lo so, ma ritengo di sì. Perché era una prassi abbastanza comune quella di assicurare le navi in quei tempi. Anzi, poi si sviluppa un sistema che è assolutamente simile a quello che usiamo noi per assicurare le nostre automobili. Cioè, la polizza assicurativa con cui si assicurava una nave da carico nel 500 non era molto diversa da un RC Auto dei tempi nostri. Per com'era concepita, per cui insomma, anzi, ma poi ci sono anche degli episodi per cui, per esempio, come genovesi e veneziani non è che si volesse un granché bene. No. E allora, prima della battaglia di Lepanto, il comandante generale dei veneziani, Sebastiano Venier, dice al comandante dei genovesi, Gianandrea Doria, ma insomma, se non vuoi rischiare le tue navi, guarda che te le assicuro, proprio per il segno di spregio, no? Era un po' come lanciargli degli strali, anche a dire spero che il tuo viaggio vada male, che i tuoi carichi vadano del tutto perduti. No, ma in quel caso no, perché dovevano combattere i turchi, per cui siccome i veneziani ci tenevano che ci fossero anche i genovesi, per cui però, insomma, non si volevano bene di sicuro. No, comunque la cosa che è da sottolineare è che proprio nel campo delle assicurazioni si vede più che mai come questo sistema si sia irradiato da una città all'altra d'Italia e come fosse tutto strettamente collegato, perché l'assicurazione nasce a Genova. Le prime forme assicurative, i primi mutui assicurativi che noi conosciamo, i più antichi, sono genovesi. Dopodiché i toscani le portano a Venezia e sono proprio sempre nelle prime polizze veneziane, c'è sempre un toscano di mezzo che si assume questo ruolo un po' così di propagatore del capitalismo. I veneziani poi raffinano la tecnica e creano quindi la figura dell'assicuratore terzo rispetto alle due parti. Che si chiamava sensale di sicurtà. Sensale di sicurtà. Incredibile. Esatto. E creano il premio, la polizza premio, come la conosciamo oggi, come dicevo prima. E c'è anche il luogo fisico, perché a Rialto, a Venezia, c'è una piccolissima e stretta calletta dove mai nessuno va, che si chiama Calle della Sicurtà. E quello era il luogo fisico dove è nata l'assicurazione moderna. Cioè, tutti gli assicuratori dovrebbero andare lì. Diciamo che da quelle parti, poi, alla fine, soprattutto nella tua città, per la verità, il primato delle assicurazioni, diciamo che è rimasto. Poi è andato a Trieste. Insomma, comunque non è una importanza, non altri tempi. No, ma quello che volevo sottolineare è che, siccome noi italiani siamo specialisti nel buttare le perle ai porci, cioè questo luogo dove è nata l'assicurazione mondiale non c'è nemmeno una lapide, non c'è scritto nulla. E c'è, in compenso, c'è la scala di sicurezza del tribunale, che hanno costruito in mezzo questa struttura di metallo, per cui hanno devastato questa calle. Alessandro, abbiamo parlato di genovesi, di toscani, di veneziani, adesso andiamo un po' a sentire invece i lombardi cosa si sono inventati dal punto di vista della storia della finanza. Li chiamavano lombardi ed era da loro che la gente comune andava a bussar quattrini. Certo, non avevano né la fama né la rispettabilità dei grandi banchieri internazionali. Della maggior parte di questi piccoli operatori del credito non sappiamo neppure il nome, né conosciamo quello dei loro clienti. Una bella differenza rispetto ai bonsignori o ai medici che prestavano a principi, papi e re. I lombardi tenevano banchi di pegno sparsi per mezza Europa, eppure quelli che si rivolgevano a loro per chiedere in prestito piccole somme non avevano nemmeno chiaro da dove venissero. Erano italiani, certo, ma non proprio originari della Lombardia, quanto piuttosto del Piemonte, soprattutto Asti, Chieri e Alba, e dell'Emilia, Piacenza. La differenza fondamentale tra il grande credito mercantile e quello al consumo è che il primo ha come scopo il guadagno, mentre il secondo serve ad assicurare il sostentamento. Ciò non significa che il prestito al consumo sia improduttivo, anzi, tanti piccoli prestiti risultano determinanti per la crescita economica di una città, perché favoriscono la circolazione del denaro, esattamente come avviene ai giorni nostri con la vendita a rate e con i prestiti al consumo. Non a caso le testimonianze dei contemporanei sottolineano che il popolo non può vivere senza credito. A far circolare il denaro fin nei più remoti capillari del sistema finanziario dell'Europa medievale contribuiscono in maniera determinante i cosiddetti lombardi. Dare del lombardo a qualcuno non era esattamente un complimento. Significava sì italiano, ma più o meno con il tono sprezzante che qualche secolo dopo gli americani avrebbero attribuito alla parola dago o i tedeschi a Welsh. Insomma, i lombardi stavano sull'anima un po' a tutti. Erano visti come una massa di usurai, indispensabili, ma da disprezzare e tenere a distanza. Alessandro, che concetto nobile che hai utilizzato, stavano sull'anima, per non dire qualcos'altro, naturalmente, però insomma il tema del credito al consumo nasce allora in tempi veramente antichi, quel fenomeno finanziario che ha portato anche alla crisi terribile nella quale ancora ci troviamo completamente immersi, è come dire invece una pratica che si conosce da secoli e che anzi all'epoca aveva anche grande successo, perché effettivamente se non si dava la possibilità alle persone di indebitarsi, magari sicuramente l'economia non aveva l'opportunità di espandersi. Ah, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, cioè la rinascita economica dell'Europa di fine Medioevo è dovuta a queste centinaia di piccoli prestatori che andavano dappertutto, ci sono tracce di Lombardi fino ai Carpazi, diciamo dall'Inghilterra ai Carpazi, e hanno messo in moto l'economia europea, hanno dato alla gente comune il denaro per comprarsi le semenze, proprio comprarsi quello che era necessario per avere. Ma chi erano questi prestatori? Dove prendevano le risorse da dare poi a prestito? Ecco, molto spesso erano risorse di famiglia, erano appunto queste famiglie piemontesi, così anche rendiamo un po' di onore ad una regione che abbiamo tenuto fuori, esatto, erano fino piemontesi a questo momento. Poi c'erano anche ovviamente Lombardi di Lombardia, ma diciamo che lombardo era la parola con cui venivano indicati gli italiani. E piemontesi e piacentini che avevano queste risorse di famiglia le mettevano in gioco facendo, insomma, andando in giro per l'Europa a prestare queste somme su pegno. Una cosa che è molto interessante notare è che il disprezzo con cui venivano trattati i lombardi poi passa agli ebrei, perché i prestatori lombardi verranno sostituiti dagli ebrei, che poi a loro volta verranno sostituiti dai Monti di Pietà. Ma mentre i lombardi cristiani, quando finiscono di fare i prestatori su pegno e quindi gli usurai, rientrano nei ranghi perché sono cristiani come tutti gli altri, poi gli ebrei, quando anche finiscano di fare i prestatori su pegno, sempre ebrei rimangono, e purtroppo come sia finita poi l'abbiamo vista. Certo. In che momento nasce invece il moderno concetto del tasso di interesse da riconoscere su un prestito? Ah, è un processo molto lungo. La Chiesa, la dottrina ecclesiastica vieta l'interesse, ma non un tasso di interesse alto, qualsiasi tasso di interesse. L'usura ai tempi era qualsiasi tasso di interesse, perché San Tommaso aveva detto che il denaro non può generare denaro, e per cui il tasso di interesse è un peccato contro natura, perché si fa copulare il denaro. Non è un caso che Dante metta all'inferno gli usurai insieme ai sodomiti nello stesso girone. E gli italiani, i banchieri italiani, si inventano con una fantasia sfrenata un mucchio di sistemi per aggirare i divieti ecclesiastici sull'usura e quindi sull'interesse. Lo strumento principale. Quindi diciamo che i derivati pure sono un concetto piuttosto vecchio. Ah, ma assolutamente anche quelli, sì, certo, poi si trovano anche, diciamo, quello che è un po' l'antenato del derivato, si ritrova. Ma lo strumento proprio per evitare di incorrere negli strali ecclesiastici era la lettera di cambio, la cambiale, cioè si fingeva di cambiare e in realtà si prestava del denaro, e nel tasso di cambio era nascosto l'interesse. La cosa interessante è notare che la finanza islamica oggi funziona esattamente così, cioè oggi nei paesi islamici tutto il sistema è basato sugli stessi principi che c'erano in Europa nel Medioevo e nel Rinascimento, e anzi gli islamici sostengono che siamo stati noi ad aver deviato dagli insegnamenti biblici sull'usura, e che loro invece hanno mantenuto l'ortodossia in questo tema. Comunque non è che nei paesi islamici non ci si possa comprare una casa andando in banca, semplicemente appunto anche lì si usano dei sistemi, dei trucchi, diciamo, che nascondono il prestito dietro altre cose. Cioè, per esempio, nella finanza islamica, se si vuole comprare una casa, la casa la compra la banca, la affitta per, mettiamo, 20 anni, nell'affitto c'è nascosto il tasso di interesse, e dopo 20 anni la casa può essere riscattata da parte del legittimo proprietario che per 20 anni ha pagato l'affitto. Per esempio c'è un esempio di Azara, che allora era un possedimento veneziano, esattamente c'è un sistema di affitti che è esattamente uguale, esattamente questo. Salvadanaio. Agli economisti di scuola liberista, gli stati medievali italiani sarebbero piaciuti un sacco. erano leggeri, anzi leggerissimi, tasse quasi non se ne pagavano e per finanziare le guerre, un affare maledettamente costoso, si ricorreva ai prestiti volontari. Prestanze, si diceva. Solo che poi una prestanza oggi, una prestanza domani, il debito si accumula e per venirne fuori non c'è altra via che consolidarlo. Le banche, man mano, diventano così un mezzo di canalizzazione del risparmio privato verso il debito pubblico, più o meno come oggi avviene in Giappone. Gli stati medievali, a poco, da inconsapevoli seguaci di Milton Friedman e della scuola di Chicago, si trasformano in esegeti di John Maynard Keynes e dell'intervento pubblico. Nascono quelle che noi conosciamo con il nome di obbligazioni, le azioni invece vedranno la luce in Olanda nel XVIII secolo, mentre le banche di Stato si sostituiscono a quelle private fino a giungere al punto, come accade a Genova, che banca e Stato diventano in pratica la stessa cosa. Nel Settecento tiene banco il prestito all'uso di Genova, conteggiato in moneta genovese con gli interessi da pagare a Genova e in valuta locale. La formula è diffusissima e con l'eccezione delle case regnanti di Spagna e Inghilterra la utilizzano un po' tutti e all'indomani della Rivoluzione francese i debiti ormai inesigibili degli Orléans creeranno non pochi problemi. Anche la casa di San Giorgio dava regolarmente denaro all'estero e dai suoi registri emergono per esempio l'ingentissimo prestito di 2 milioni e 400 mila lire effettuato nel 1780 alla città di Parigi e quello più modesto ma sempre alto in relazione ai tempi di 40.000 lire accordato 2 anni dopo alle zie del re di Francia. L'orgogliosa Parigi che si piega a bussare a quattrini nell'arcigna Genova. Sì, è davvero il mondo di ieri. E anche questo era un brano tratto dal libro L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. Noi stiamo saltellando da un capitolo ad un altro con l'autore di questo testo, Alessandro Marzo Magno, e adesso abbiamo appreso che il nome originario di obbligazioni o di bond era prestanza. Alessandro, ma è mai capitato nel Medioevo che uno Stato sovrano dichiarasse default, visto che oggi succede anche questo nei tempi moderni? Ma guarda, sostanzialmente Genova consolida il debito pubblico per non fallire. All'indomani della guerra di Chioggia, persa con Venezia. Lo consolida, cioè lo ristruttura? Sì, nel 1398, no? Genova perde questa guerra e i titoli di debito pubblico cominciano a perdere valore molto fortemente, finché nel 1407, appunto vedete pochi anni dopo, viene creata la Casa di San Giorgio che assorbe, consolida il debito pubblico, per cui appunto, sono strumenti che erano ben conosciuti anche allora. E invece i sovrani per non fallire facevano molto presto, non pagavano più i loro debiti. Sì, anche quella, come dire, una pratica che ci è capitato di studiare negli ultimi anni. C'è qualche cosa di simile che in quel periodo che tu hai analizzato è successo paragonabile alla storia moderna di Cipro, Alessandro? Questi giorni leggendo delle vicende appunto di questa isoletta del Mediterraneo che ci sembra così lontana, ma quando si tratta di innescare delle pericolose turbulenze finanziarie invece tanto vicina, sono appunto delle vicende che in qualche maniera ti hanno richiamato, ti hanno risvegliato nella testa episodi che avevi studiato per il tuo libro, per l'invenzione dei soldi? Ma guarda, devo dirti la verità, no, perché Cipro mi viene in mente la guerra di Cipro che è stata un'altra volta che si è trovata al centro dell'attenzione europea. Ma non per questioni finanziarie, no. quando gli ottomani hanno spellato vivo Marcantonio Bragadin e poi è stata la... Ah vabbè, noi non arrivavo tanto. E poi è stata insomma la guerra che ha innescato la battaglia di Lepanto. Insomma, la battaglia di Lepanto è stata combattuta in teoria per salvare Cipro. In realtà poi non si è salvato proprio un bel niente, i cristiani hanno vinto ma dopo si sono immediatamente messi a litigare fra di loro e Cipro è rimasta saldamente ottomana, ecco. Questo quando io, sai, un pochino così da veneziano, quando si parla di Cipro mi viene in mente Lepanto. Senti, invece, perché nel 1456 a Londra, quella città che oggi definiremo la City, la chiamiamo la City quando parliamo di mercati finanziari, forse all'epoca non aveva ancora questa definizione, questa appellativo, perché in quel periodo scoppiarono questi moti e queste rivolte contro i banchieri italiani? Il primo vero e proprio movimento di indignados appunto nasce lì. Sì, tra l'altro la City che esisteva già nella sostanza, perché Lombard Street, che appunto prende nome dai Lombardi, è il cuore della City, allora si chiamava Great Tower Street, ma insomma quello era. Perché? Perché gli inglesi ce l'avevano con gli italiani, perché facevano i banchieri, facevano gli usurai, perché portavano via il lavoro agli inglesi, cioè la sindrome dell'idraulico polacco, no? Cioè una novella che proprio racconta come gli italiani, importando beni, in questo caso tessuti a basso prezzo, togliessero il lavoro alle donne londinesi che non riuscivano più a lavorare a causa della concorrenza italiana, oppure che usavano le navi fiamminghe anziché le navi inglesi per portare le merci, perché le navi fiamminghe costavano meno. E per cui alla fine questi, insomma, hanno covato rabbia per anni e anni e anni, finché appunto a metà del 400 sono proprio esplosi dei veri e propri moti di piazza contro gli italiani, repressi nel sangue, cioè hanno impiccato un po' di gente, quindi insomma una cosa abbastanza grave, un episodio poco conosciuto. E gli italiani, per protesta, ma anche per salvaguardare la loro incolumità fisica, abbandonano in massa Londra, e per 3 anni non ci sono più mercanti e banchieri italiani a Londra. Ma poi insomma si accorgono i londinesi, il sovrano si accorge che questa gente serviva, perché insomma appunto i banchieri erano quanto mai necessari, e per cui li richiama indietro, insomma, poi dopo le cose si sono un po' aggiustate. Si sono un po' sistemate. Senti, invece, per rintracciare anche qualche concetto di natura fiscale, dobbiamo risalire pure al Medioevo, perché a quanto pare anche in questo periodo si inventano la partita doppia. A chi dobbiamo questa grande scoperta? A chi dobbiamo non lo sappiamo. Genova la attribuisce a se stessa, Firenze anche, pure Venezia. Ah, litigano pure per attribuirsene la paternità. Forse perché non l'hanno mai avuto, perché non la studiavano, non facevano ragioneria. No, ma comunque la parità doppia è fondamentale, perché il capitalismo moderno si nutre di partita doppia. C'è un presupposto fondamentale per l'economia aziendale. Esatto, un grande studioso di economia dice che la rivoluzione contabile della partita doppia per l'economia vale tanto quanto la rivoluzione copernicana per l'astronomia. Cioè non ci sarebbe economia moderna senza capitalismo moderno, senza partita doppia. E la partita doppia nasce, non si sa bene dove, circa a metà del 200 in un qualche emporio commerciale italiano, e poi si sviluppa a Genova, in Toscana, a Venezia, e fino ad assumere i connotati che conosciamo noi oggi. E c'erano metodi diversi, per cui c'era il sistema alla fiorentina, in cui il dare e l'avere era incolonnato uno sotto l'altro, il sistema alla veneziana, che poi è quello che ha prevalso, in cui invece era su pagine contrapposte, no? Pagina A e pagina B. Si propaga, diciamo, questo sistema viene fatto conoscere da un libro stampato a Venezia, da cui prende il nome di Metodo Veneziano, ma perché questo libro è stampato a Venezia, non perché la partita doppia sia nata a Venezia, e scritto da Luca Pacioli, che era un grande matematico del nostro Rinascimento, un genio matematico del nostro Rinascimento, misconosciuto, perché siccome era un matematico e non un pittore, allora agli italiani non piace tanto. Non interessava molto. Senti, Alessandro, un'ultima cosa. Sì, hai terminato di raccontarmi com'è nata la partita doppia? Sì, la partita doppia e la fa conoscere. Certo. Un'ultima considerazione, anche se in realtà il capitolo sarebbe molto interessante da analizzare in tempi più lunghi, però abbiamo affrontato fino a questo momento tutta la storia dei mercanti, di banchieri, di tutte quelle modalità che si avevano anche per far sviluppare l'economia in quel periodo, però non abbiamo forse spiegato qual era la declinazione medievale del risparmio. Chi erano i risparmiatori più attenti in quel periodo? Ma guarda, alla fin fine chi poteva risparmiava, diciamo che era abbastanza, il risparmio era abbastanza diffuso, in forme ovviamente magari anche diverse rispetto a quelle che conosciamo noi oggi. Le banche erano divise in diverse categorie, non c'era come adesso una banca sola dove si faceva tutto. Per esempio c'erano i banchi di deposito, che erano nella sostanza simili alle nostre cassette di sicurezza, dove si mettevano i beni per salvaguardarli. Esistevano poi delle forme di risparmio molto più complesse, per esempio a Firenze il Monte delle Doti, che era un'istituzione dove i padri mettevano del denaro per poi dotare le loro figlie, ma di fatto era insomma un sistema così, per risparmiare e per far fruttare il denaro. A Venezia invece si crea un'altra cosa molto divertente, che è la Camera del Frumento, uh-huh. e che è una specie di antesignano delle banche svizzere, perché la Camera del Frumento era utilizzata dai sovrani stranieri per mettere in salvo il loro gruzzolo in caso fosse successo qualcosa in patria, cioè in caso che fossero stati cacciati e gli avessero tolto il trono, insomma, e per cui tanti signori depositano le loro sostanze a Venezia, e il governo di Venezia garantisce la salvaguardia dei fondi depositati nella Camera del Frumento, anche in caso di guerra, per esempio contro lo Stato di quel sovrano, comunque i fondi depositati lì venivano garantiti, che è più o meno quello che facevano fino a un po' di tempo certo. fa. E insomma, le curiosità non mancano. Alessandro, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma spero di aver incuriosito in maniera e misura sufficiente i nostri ascoltatori, al punto da andarsi a leggere naturalmente tutto il resto del contenuto del tuo libro, L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. L'autore è Alessandro Marzomagno, l'editore è la collezione storica di Garzanti. Io ti ringrazio per essere stato con noi, naturalmente ti auguro buona Pasqua. Bene, tanti auguri a grazie tutti, insomma, spero che di avere un po' incuriosito gli ascoltatori. Non abbiamo nessun dubbio su questo, ti faremo sapere poi se ci hanno scritto, ti gireremo sicuramente tutte le mail. Grazie ad Alessandro, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, a Valeria Bernardi per l'assistenza tecnica, da Deborah Rosciani grazie a tutti e naturalmente buona Pasqua.